140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Parole dintorni, ufficio stampa, Milano. Un progetto con Francesco Bianconi e Caballà. Un ritratto del mondo d'oggi per Mario Venuti. Il nuovo album, Il tramonto dell'Occidente. Da subito si cerca di abbracciare l'idea che in questo tramonto si possa intravedere, nella luce di questo tramonto ci possa essere una novità, ci possa essere qualcosa di diverso che dovremmo imparare magari per il futuro. E questo poi dopo è stata una cosa che ha accompagnato il resto del disco. Quindi al di là della minaccia del titolo, poi man mano che il disco si sviluppa, si ribadisce proprio le possibili vie d'uscita, le possibili vie di salvezza, l'atteggiamento redentore da un disagio, da un momento appunto in cui le nostre certezze scricchiolano. E allora oggi si reagisce spesso con un facciamo finta di niente. Spesso ci sono degli artisti oggi che hanno avuto di fronte a questo, la gente sa già, c'è un sacco di problemi, le cose, vuol solo divertirsi, distrarsi, e quindi si propongono con un ottimismo beota, col sorriso stampato sulla faccia, e fanno finta che tutto va bene, stiamo benissimo, tutto yeah. Però noi abbiamo pensato che fosse più onesto partire da un dato della realtà, di partire dal tramonto e arrivare all'alba, in pratica. L'alba che sorge sempre ad est, lo dici. Usi la prima persona plurale, noi, perché è un progetto non solo tuo. Ultimamente, devo dire, questa cosa della condivisione della scrittura è... cioè, anche questo bisogno è anche un po' di contaminarsi. Secondo me le idee non possono che arricchirsi con il contributo delle persone che stimi. Quindi, diciamo, l'idea dell'artista puro che canta solo se stesso l'ho fatto per tanto tempo, e adesso in cui sono anche più aperto, più sicuro di me, mi piace confrontarmi con gli altri, le cose, è bello. Nel ventre della città sere d'estate sul mare d'asfalto di queste borgate, non sarà male fermarsi a guardare le nostre ferite, le stelle. È stato divertente far fare Battiato a Battiato, perché questo intervento favoloso nei capolavori di Beethoven è proprio Battiato. Sì, vabbè, naturalmente le canzoni quando prendono... Devo dire che Battiato è molto presente non solo in questa canzone, è stato un po' una specie di nume tutelare un po' di tutto il lavoro, perché Bianconi è un grandissimo fan di Battiato. Io ci ho lavorato e ne sono naturalmente un maestro, mi ha insegnato tantissime cose, anche per Caballà. E poi così scherzando, scrivendo le canzoni, forse avevamo l'ambizione di fare la nostra voce del padrone del 2000, perché quel disco, il lavoro che ha fatto Battiato negli anni 80 è una formula... Ancora valida, questo postmodern, no? Questi collage che lui ha saputo fare in questo mondo sono un modello estetico ancora vincente. Allora noi un po' ci siamo divertiti a riproporlo, ma anche per esempio il contrasto che c'è tra le parole e la musica, questo contrasto fra il testo, questi testi in tono intellettuale però anche smorzato dall'ironia, in contrasto con la musica così molto semplice, molto pop, perché sai, se fai una musica pop leggera così e gli metti pure il testo scanzonato, fai una cosa inconsistente. Invece è bello questo dolce amaro. Perché i capolavori di Beethoven do minore non era l'esplosione dei vent'anni, non era l'espressione del divino, ma il primo dono della sordità, il privilegio della sordità. Nel booklet c'è una sorta di manifesto, ma anche qui dici delle verità profonde con ironia. Il mondo finirà quando gli chef stellari da palinsesto televisivo, ormai annoiati dal troppo cucinare e giudicare, cominceranno a mangiarsi con gusto tra di loro. E poi però hai detto che non parlavi d'amore, ma un po' d'amore hai parlato. Il mondo finirà quando il genere umano comincerà a far l'amore sulle reti sociali senza più toccarsi, quindi è già finito. Quindi insomma, cioè, siamo arrivati a questo punto, cioè non può che migliorare, perché vedete, siamo arrivati a un punto che non possiamo che cominciare a cambiare direzione. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Mario Venuti. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.